nella scuola, noi stiamo cercando di dare una svolta, d'accordo devo dire con tutti, e ne sono molto felice. Cerchiamo di fare i concorsi, come si è visto, però cerchiamo anche di riparare al fatto che tanti docenti sono nelle graduatorie, sia pur più lentamente, perché si va più tardi in pensione, io per primo, ma bisogna anche riparare al fatto che aspirano a entrare di ruolo nella scuola. Bisogna però anche riprendere i concorsi, come dice la Costituzione, bisogna riprendere, come abbiamo detto, la battaglia contro la dispersione scolastica, bisogna dare programmi più chiari e rigorosi per tutti i ragazzi, insomma bisogna riprendere l'agenda scuola di questo paese. A metterla al centro. A proposito di concorsi, c'è un gran bailam sui quiz sbagliati per i tirocini formativi dei post laureati, ci sono stato credo un annullamento in Lazio, c'è stato un annullamento in Lombardia perché lì le buste forse si vedevano in trasparenza i nomi, forse no, forse sì, insomma sta di fatto che si è creato vari pasticci per cui molte scuole apriranno senza il personale adatto, senza i presidi per esempio. Anche su questo, sottosegretario, è possibile che nel 2012 si faccia un concorso e non si riesca neanche a farlo regolarmente in Italia? Allora, sulla faccenda lombarda, il ministro Profumo, io, tutti quanti noi siamo veramente preoccupati, perché speriamo che a novembre, quando ci sarà la sentenza di merito, questa questione sia risolta, perché abbiamo bisogno dei dirigenti scolastici in Lombardia. E questa è una prima questione. Naturalmente non è che il governo può andare contro le sentenze della magistratura, sì, sono poteri diversi dello Stato, però lo auspichiamo che si risolva questa questione, perché i dirigenti ci vogliono e come. E per quanto riguarda il TFA, sicuramente sono stati commessi degli errori e stiamo cercando di rimediare, stiamo cercando di vedere come riavviare un ciclo di concorsi. Il ministro Francesco Profumo ha detto se ne fa uno e entro il 24 settembre uscirà, come si sa, il bando, poi se ne deve fare uno subito dopo che comprenda anche il TFA. Contemporaneamente la metà, il 50% delle persone che stanno nelle graduatorie a esaurimento potrà continuare ad entrare, così come abbiamo fatto entrare. Adesso, domani, entrano a prendere servizio 20.122 persone che vengono dalle graduatorie, e inoltre i docenti delle graduatorie possono sicuramente fare i concorsi, mettersi alla prova con gli altri, e quindi diciamo quindi è un modo per salvare in moto, cioè, la macchina, cioè, poi per salvare chi sta in graduatoria, cioè lei sta dicendo si salvano un po' di quelli che stanno in graduatoria, ma si dovrà arrivare a un sistema regime per cui le assunzioni avverranno solo per concorso, cioè questo sì, e quindi questo significa che bisogna dare la regolarità del concorso. Naturalmente, dato che ereditiamo una situazione di promesse verso persone, è giusto che si onori questa promessa, e quindi c'è una gradualità.